Allora, abbiamo con noi Caterina della rete NoCPT di Bari, che ci racconta prima di tutto il percorso appunto di questa rete e poi andremo a parlare più in dettaglio anche rispetto alle iniziative che ci saranno e al bellissimo documento che hanno scritto. Ciao, sono Caterina e volevo appunto parlarvi della rete NoCPT, che non è un cartello di associazioni, siamo orgogliosi di dichiararlo, ma in realtà un punto di incontro di singolarità che sono sempre impegnata in questi ultimi anni, sia dal fronte, diciamo, dell'immigrazione e dell'accoglienza, sia dal punto di vista anche della psichiatria e della medicina. Degli aspetti, insomma, che hanno coinvolto la Puglia stessa sin dal 1991, con lo sbarco degli albanesi, hanno posto la Puglia, diciamo, di fronte a questa questione. E soprattutto, ci siamo accorti, lavorando in questi anni, che in realtà è il sistema che regge tutto questo. È un sistema basato, diciamo, sulla guerra preventiva, cioè sul fatto che comunque sulla paura che si può creare nei confronti del cosiddetto migrante che arriva nella nostra terra e toglie il lavoro. Ecco, a fronte di questa paura in realtà si regge un sistema che è tutto economico e che poi unisce veramente i precari e i migranti, non semplicemente come addizione, ma come effettivamente due aspetti della precarizzazione un po' della vita di tutti. È chiaro che nella questione dei migranti, e la rete NoCPT, diciamo, si è battuta sempre per questo, esprime delle caratteristiche, delle specificità particolari, però quello che ci vede uniti in questo momento, appunto, non è una falsa etica, ma in realtà la consapevolezza del fatto che oggi come oggi, per bloccare questa guerra globale permanente, c'è bisogno di un sottrarsi attivo di tutti quelli che ne fanno parte, cioè di tutti quanti noi. Nel senso che l'ipocrisia delle associazioni che da una parte offrono, diciamo, dovrebbero, dichiarano accoglienza, in realtà gestiscono questo sistema fatto di morte e di privazione di libertà, insomma, è un'ipocrisia che va smascherata. E quindi, per dirvi, anche a Bari stanno costruendo, anzi l'hanno già finito, questo CPT mostruoso nel quartiere San Paolo, che è un quartiere periferico. E già l'altra volta, quando ci è capitato quando abbiamo organizzato, insomma, una presenza fuori di questo erigendo CPT, mi sono aperta. E torniamo a parlare appunto di CPT, ma appunto rispetto a una giornata di mobilitazione europea che appunto sarà quella del 2 aprile. E come si è costruita l'iniziativa e appunto magari anche se riusciamo a sottolineare alcuni aspetti, alcuni passaggi del vostro documento, quello che vedono come sempre più appunto polizia che diventa esercito, esercito che diventa polizia, non solo in una dimensione di guerra, ma questa dimensione di guerra va al di là della guerra in sé e quindi si emana e si diffonde anche all'interno dei CPT o anche proprio come costruzione in sé, no? Luoghi dove appunto vengono richiuse persone che non hanno commesso nessun tipo di reato e che vengono legittimati giusto per questo. Ma infatti, quando io prima ti dicevo rispetto all'arrivo degli albanesi, diciamo che lì è stato il primo prototipo di un nuovo esercizio sul territorio, cioè appunto la prevenzione, cioè sottrarre delle persone in fuga, cioè sottrarre a loro la libertà, i loro diritti per rinchiuderli in questi luoghi. Come appunto i CPT, non ha fatto altro che, diciamo, fare esercitare questo nuovo tipo di gestione della guerra, che è più poliziesco e più legato al controllo del territorio. E per questo, diciamo, che la chiusura del CPT, che è l'unico obiettivo che tutti quanti ci possiamo porre, perché non c'è un CPT riformabile, chiaramente, è quello che ci unisce, perché appunto, come dicevi tu, la guerra ormai ha espresso chiaramente come diciamo, da una parte si presenti la questione dell'azione di polizia come generatrice, regolatrice, diciamo, della vita, dall'altra e in realtà si comanda direttamente sulla morte di tutti, insomma. Quindi sicuramente funziona proprio su questa contraddizione, su questo paradosso, cioè da una parte presenti la cura della vita, dall'altra invece realizzi un massacro di massa. E per concludere direi di ricordare l'appuntamento di domani, San Nicola. Infatti l'appuntamento di domani è importantissimo, sia perché si inserisce in questo network, insomma, di eventi che unisce un po' tutta quanto l'Europa, ma è importante anche per la città di Bari, perché noi abbiamo scelto di inscenare lo sbarco di San Nicola, che è comunque un santo, il patrono di Bari, e viene dalla Turchia, quindi è un extracomunitario. Quindi la vogliamo rendere anche visivamente e porre l'accento su questa questione, uscendo un po' dal discorso della semplice testimonianza, no? E cercare invece di rendere visibile alla popolazione ciò che invece è reso invisibile dalla politica, sostanzialmente, cioè il fatto che ci sia un lager in questa città, qualcuno lo sa, molti fanno finta di non saperlo o pensano che non sia un loro problema. Ecco, l'iniziativa di domani che noi vogliamo fare è proprio questo, di mettere invece al centro la questione e ribadire che possiamo sottrarci a questo tipo di controllo, a questo tipo di dominio, soltanto prendendoci tutte le nostre responsabilità e quindi interrompendo questi meccanismi perversi in qualsiasi forma essi si presentino. Ecco, questa è la scelta nostra, e quindi ci auguriamo, insomma, di raggiungere questo obiettivo.